Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo ritornati di 451 intersezioni. Devo dire che il buon caro amico e compagno Max Macchia non ha saltato invece nulla in questo periodo in cui invece io sono mancato, dunque lo saluto caramente. 451 frammenti sonori ha mantenuto la sua messa in onda regolarmente, mentre 451 intersezioni, lo spazio del giovedì notte o anche venerdì, perché siamo proprio a cavallo delle due giornate, siamo proprio nel crinale alla mezzanotte di giovedì, infatti diamo come riferimento, per non confonderci, dallo 00, anzi dalle 24 di giovedì fino all'una, una e mezza di venerdì. 451 intersezioni condotta da me medesimo, che vi saluta caramente, Eliseo Scarpa. È mancata per due puntate consecutive, me ne dispiace e mi scuso chiaramente con gli ascoltatori, che saranno sicuramente numerosissimi, si saranno strappati i capelli, le orecchie per la mancanza di questo spazio radiofonico. Ma in ogni caso, per gli amanti e gli affezionati di 451, sia frammenti sonori che 451 intersezioni, mi scuso ovviamente anche per coloro che si fossero messi casualmente in ascolto i giovedì scorsi e intorno a mezzanotte non hanno trovato nulla se non ovviamente il nastrone audio di Radio Città Fujiko, che comunque può accompagnarvi nelle nottate adesso già molto umide di ottobre e adesso novembre. E stasera siamo ritornati, dunque 451 intersezioni. Vi ricordo chiaramente anche il nostro blog no blog, 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete riascoltare le puntate sia di 451 frammenti sonori, che va sempre in onda il mercoledì notte dalle 23 fino all'una circa, e 451 intersezioni giovedì notte dalle 24 alla 1:30. Io ovviamente vi catapulto dentro il tema di stasera, che è legato a una vecchia trasmissione di 451 intersezioni della stagione precedente, cioè alterazioni pianistiche. Avevamo fatto una puntata diversi mesi fa intitolata appunto Alterazioni pianistiche capitolo 1, manipolazioni, trasformazioni del piano, dei suoi derivati in tutte le forme che le avanguardie, le sperimentazioni, dalla musica contemporanea alla musica elettroacustica, alla musica elettronica, ha utilizzato sullo strumento fisico del pianoforte e anche degli affini, tastiere, sintetizzatori. Ma stasera ci concentreremo quasi esclusivamente sullo strumento acustico del pianoforte, seppur manipolato in tutte le sue forme. Stasera ci sarà il capitolo 2, affronteremo musicisti che attraversano l'elettronica, l'elettroacustica, la sperimentazione degli anni zero, ma attraverseremo addirittura gli anni 30 con un grande autore di musica contemporanea, di musica sperimentale, che rimane sempre presente e sempre attuale. E attraverseremo ovviamente anche il Novecento in questa oretta abbondante di trasmissione di questa serata. Ma prima di catapultarci dentro la puntata di alterazioni pianistiche di stasera, vorrei comunque dire qualcosa rispetto al panorama politico cittadino. Perché? Perché 451 non si è mai tolto, anzi si è sempre tolta qualche sassolino dalle scarpe, tenendo conto che siamo una trasmissione che chiaramente è dichiaratamente legata comunque a percorsi politici di movimento, del movimento antagonista, sia del passato che del presente, speriamo anche del futuro. Chiaramente non è il nostro DNA principale dentro una trasmissione di musica sperimentale, ma non ci scolleghiamo chiaramente dalla realtà concreta, anche perché crediamo che l'avanguardia delle musiche sperimentali, soprattutto quelle più importanti anche del Novecento, sono state attraversate e hanno attraversato anche i movimenti sociali e politici di trasformazione. E mi riferisco alla città di Bologna, a quello che è successo nelle ultime settimane, sgomberi su sgomberi. In particolar modo dobbiamo e voglio sottolineare la mia solidarietà personale e di 451 Intersezioni rispetto a quello che è accaduto qualche settimana fa ormai, lo sgombero anche violento, piuttosto duro, dell'ex Telecom, della palazzina occupata rimessa proprio a nuovo da moltissime famiglie di italiani, di immigrati, che è stata sgomberata appunto con la connivenza di polizia, chiaramente questura, in particolar modo anche la procura, chiaramente in primo proprio al punto A, potremmo dire, dal parte del comune e della giunta comunale con il sindaco in testa. Una pagina ulteriormente vergognosa, ma d'altronde il governo di questa città e del Partito Democratico punta sempre di più a rispondere a bisogni sociali primari come quelli del reddito, della casa, attraverso sgomberi e azioni ovviamente violente, senza dare nessuna risposta politica. E ovviamente noi questo diamo la massima solidarietà agli occupanti non solo dell'ex Telecom, perché sono state occupate varie palazzine, continuano a esserci sempre minacciati sgomberi, oltre ad azioni anche giudiziarie pesanti con arresti e provvedimenti cautelari nei confronti di compagni e compagne che si sono messe al fianco delle lotte di molte persone in chiara e diretta difficoltà. E al di là di questo nostro ovviamente comunicato, potremmo dire piccolo comunicato politico, all'interno di uno spazio radiofonico ci addentriamo dentro le alterazioni. Vogliamo alterarci, stasera siamo alterati, alterazioni pianistiche che partono attraverso un autore che si muove dentro la musica elettronica e sperimentale, ma molto molto legato anche alle manipolazioni legate, scusate il gioco di parole, nei confronti ovviamente dello strumento cardine, quello di stasera, cioè il pianoforte acustico. Alterazioni utilizzate e applicate sia sui tasti, la tastiera del piano, ma anche sulle corde del piano e su tutto ciò che fa la cassa di risonanza al pianoforte stesso, dunque oggetti, collegamenti elettrici ed elettronici al pianoforte, creando una vera e propria orchestrazione. Lo sentiremo proprio in questo album. In particolar modo dobbiamo ricordare l'autore, perché non l'ho ancora detto, Auschka, che in realtà è uno pseudonimo. Il suo vero nome è Volker Bertelmann, che è già sulla scena degli anni zero da alcuni anni, ha prodotto bellissimi album, in primo luogo l'album di esordio Substantial, ma arrivando poi a moltissime altre composizioni e collaborazioni musicali appunto legate a questo aspetto delle elettroacustiche, delle manipolazioni, delle trasformazioni strumentistiche. Andiamo a sentire da Auschka, per aprire Alterazioni pianistiche capitolo 2 di stasera, sera live at NPR del 2010, un vero e proprio live, un estratto di questo live per farvi ascoltare un'altra accezione, un altro modo di concepire un'alterazione appunto al pianoforte acustico. Buon ascolto. Thank you. Siamo ritornati in diretta con in sottofondo le note del grande Erik Satie, che ovviamente è un po' il padre di tutte le alterazioni compositive e pianistiche che hanno attraversato poi il Novecento e gli anni Zero. Abbiamo mixato chiaramente l'autore, possiamo dire contemporaneo, Aushka, da Live at NPR 2010, con un grande compositore, musicista sperimentale e assolutamente unico, statunitense, Henry Cowell, che è nato nel 1897, è morto nel 1965, musicista appunto statunitense che si è interessato fin da giovanissimo alle sperimentazioni musicali, a tutte le forme di atonalità, politonalità, poliritmie e modi e composizioni e soprattutto dinamiche dello strumento pianistico. Musicista che ovviamente amava il grande Erik Satie, che comunque era praticamente più giovane di lui, ma comunque anche contemporaneo, seppur lui era giovanissimo. E poi chiaramente Cowell ha portato avanti fin dagli anni 20, per gli anni 30 e 40, sperimentazioni legate al pianoforte, arrivando anche ad essere un apripista delle sperimentazioni del pianoforte preparato dal grande John Cage. L'opera in questione che abbiamo ascoltato, un piccolo estratto, è tratto da The Fairy Answer del 1929, in questo caso la composizione è stata eseguita da un pianista italiano, Fausto Bongelli. Ed è interessante anche sentire, seppur il suono, la composizione molto differente, molto distante per certi versi, di Aushka con Henry Cowell, ma parliamo praticamente di 80 anni di distanza, rimane comunque l'uso pianistico. Se Aushka lo utilizza dentro un caleidoscopio sonoro, utilizzando il pianoforte in tutte le sue forme, creando una vera e propria orchestrazione, utilizzando strumenti e interazioni elettroniche elettriche, ma anche manipolazioni fisiche alle corde, alla cassa di risonanza del pianoforte stessa, ai tasti, all'uso della dinamica dei tasti. Abbiamo ascoltato invece Cove, che lavora prettamente, chiaramente, sul piano acustico, ma utilizzando armoniche, tonalità e poliritmie all'interno delle armonie stesse elaborate da Cowell, molto vicine chiaramente a tutto il fenomeno che poi ha attraversato il Novecento del minimalismo, che oltretutto affronteremo proprio adesso con il prossimo autore, ed è sicuramente una pietra miliare della sperimentazione sonora, e in particolare di quella legata al pianoforte acustico. Da Cowell, appunto, andiamo ad aprire la strada a uno dei grandi del minimalismo. Parliamo di John Adams, musicista che poi dal minimalismo è arrivato anche al massimalismo, una forma molto più ridondante, potente dell'aspetto minimalista, dall'album Parisian Gates, uscito nel 1980, una delle due composizioni dell'album che è uscito nell'80 stesso. Ci ascoltiamo un estratto di questo altro modo di alterare e di costruire un aspetto armonico, poliritmico e quasi seriale della composizione sonora di John Adams e della madre, diciamo, di tante sperimentazioni sonore, non legate soltanto al pianoforte, ma anche a composizioni, orchestre. Basta ricordare grandi compositori come Steve Reich, o aspetti invece più psichedelici e mantrici di Terry Riley. In questo caso ascoltiamo l'aspetto più legato, possiamo dire, per certi versi, alla musica contemporanea del grande John Adams. Buon ascolto, ovviamente, con Parisian Gates. Thank you. E siamo ritornati in diretta, anche se diciamo il finale è stato un po' burrascoso, un'entrata imprevista alla fine del brano, non certamente molto piacevole, ma mi scuso chiaramente, ma non dipendeva da me, problemi della tecnicità di Radio Città Fujiko, ma non solo di Radio Città Fujiko, in generale delle radio ancora che possiamo definire tra virgolette un po' libere, un po' sganciate dai canali prettamente commerciali. Anche qua dovremmo aprire, chissà, forse l'abbiamo fatto anche in passato, un po' di storia di una certa radiofonia legata al fenomeno storico delle radio libere, ma forse dovremmo fare qualcosa ancora di più approfondito per coloro che sono molto giovani e non ricordano, non sanno nemmeno che esisteva una dimensione completamente differente nel passato, quando c'è stata una sorta di liberalizzazione tra virgolette, non nell'ottica attuale come fenomeno di liberalizzazioni economiche, una sorta appunto di libertà della trasmissione radiofonica contro, diciamo, il monopolio Rai. Negli anni 70 ci fu una famosa sentenza che deliberò appunto che la Rai non poteva avere il monopolio assoluto e ci poteva essere la possibilità di trasmettere attraverso altri canali sganciati dal monopolio statale del potere, e poi sono nati da lì sicuramente radio libere e liberate con caratteristiche chiaramente molto politiche legate al movimento antagonista degli anni 70, e poi iniziarono anche in contemporanea, parallelamente, a nascere le prime radio commerciali, che poi hanno dato il via a tutto il fenomeno che si è aperto negli anni 80, con conseguenze quasi parallele delle nascite delle TV commerciali che hanno prodotto tutti i disastri che conosciamo bene in questi ultimi 30 anni. Ma si aprirebbe un altro diciamo calderone, un'altra dimensione abbastanza lunga, secondo me molto interessante. Chissà mai che potremmo costruire un programma insieme a 451 Frammenti Sonori, una puntata speciale che raccolga un po' la storia a livello musicale, ma anche a livello di frammenti audio, di quello che è stato il fenomeno delle radio libere. Qualcosa appunto in passato l'abbiamo anche fatto. E appunto, chiudendo questo passaggio con John Adams, grande compositore statunitense, ci spostiamo in terra giapponese, andiamo a trovare un compositore che nasce musicalmente come studio e come preparazione nell'ambito della musica classica, però poi successivamente, anche abbastanza giovane tutto sommato, si avvicina alla musica sperimentale, inizia a studiare sotto il grande compositore Yannis Xenakis, per poi attraversare varie atmosfere, vari linguaggi musicali legati particolarmente alla musica contemporanea, ma non solo, si avvicina anche alla musica elettronica e arriva anche alle improvvisazioni, fino addirittura alla pop music. Chi è questo autore? Uno dei musicisti più importanti, uno dei pianisti più importanti giapponesi del Novecento, nato nel 1938, ancora in vita, ma indubbiamente anche abbastanza grandino di età, ha superato i 70 anni, e parliamo del compositore Yuji Takahashi. Questo musicista giapponese che ha collaborato con grandissimi musicisti del Novecento come John Zorn, Ryuichi Sakamoto, il progetto collettivo che spesso ha attraversato 451, Musica Elettronica Viva, Ned Rothenberg e Carl Stone come uno degli ultimi diciamo autori importanti con cui ha collaborato su vari livelli, su dimensioni anche molto differenti, ma rimanendo sempre musicista legato alla sperimentazione e all'avanguardia, in particolar modo alla sperimentazione sul suo strumento cardine, il pianoforte acustico. Takahashi, e questo è anche interessante ricordarlo, ha iniziato poi a lavorare soprattutto nel primi anni 90 con l'etichetta Zadi, che spesso ha attraversato 451, e in particolar modo proprio stasera ci andremo ad ascoltare un brano tratto dall'album della Zadi che è uscito nel 1995, cioè Finger Light. Ascolteremo dunque una composizione che si muove molto nell'ambito ovviamente della musica contemporanea. La Zadig ha questa versatilità incredibile, questa apertura mentale nel produrre veramente colori, suoni, linguaggi molto differenti fra loro, attraverso l'elettronica in tutte le sue forme, le sperimentazioni elettroacustiche, l'improvvisazione globalizzazione, arrivando anche alla contemporanea. Un'etichetta che può essere veramente molto vicina, anche come attitudine, ma forse dovremmo essere noi molto vicini, essendo nati dopo, a 451 come idea appunto di sperimentazione a 360 gradi. Ci ascoltiamo dunque un brano da Finder Light, ascoltiamo un altro versante, un'altra inclinazione dell'idea dell'alterazione pianistica. Andiamoci dunque ad ascoltare il grande Yuichi Takahashi. Buon ascolto. Thank you. E con questa marcetta che sentiamo sottofondo del grande Erik Satie, con la sua grande ironia, che rappresenta un po' il nostro filo conduttore di Alterazioni pianistiche, capitolo 2 di stasera, abbiamo chiuso la composizione tratta da Fingerlight, era una parte live, sentirete sicuramente, ve ne sarete accorti da alcuni colpi di tosse di qualche ascoltatore che non riusciva a trattenersi, e sono rientrati ovviamente anche nella registrazione. Composizione splendida, l'abbiamo dovuta, diciamo, in parte sfumare, perché è una composizione che dura circa mezz'ora, per cui avrebbe preso purtroppo molto tempo, ma non si sa mai in futuro che riusciremo a prenderci anche più tempo e a mandare delle elaborazioni concettuali e compositive estremamente lunghe, perché alle volte è anche piacevole togliersi questo sfizio anche di mandare in radio delle composizioni molto molto lunghe, soprattutto in fasce orarie notturne, che dovrebbero essere proprio adatte a questo scopo. Dal grandissimo Yuji Takahashi, dall'album Fingerlight 1995 uscito per la Zadig, andiamo in chiusura e ci spostiamo completamente, facciamo un salto radicale, ci spostiamo da una dimensione, da una composizione, da un suono, da una elaborazione concettuale e compositiva molto connessa e legata alla musica contemporanea, a un mondo completamente lontano, in parte poi realmente concretamente non così lontano, ma a livello sonoro sicuramente, e anche come elaborazione musicale sicuramente differente. Parliamo ed entriamo nell'ambiente e nel mondo elettronico, dentro però anche delle coloriture fortemente legate al minimalismo e per certi versi come tendenza elettronica alla dimensione ambient, ma non solo, perché schematizzare sarebbe abbastanza riduttivo. In realtà il progetto, che si chiama Svod e che è composto da due elementi, da due musicisti che hanno elaborato questo progetto, cioè Oliver Derrell e Stefan Warman, musicisti tedeschi che hanno portato avanti in realtà dal 2004 fino al 2011 tre album, è uscito un mix nel 2013, dunque composizioni e album non particolarmente numerosi in 10 anni di musica, ma tre album indiscutibilmente interessanti, sia il primo che andremo ad ascoltare stasera, cioè Gehen, ma anche il secondo uscito nel 2007, Sekunden, e il terzo Dry 2011, sempre per la City Center Offices come etichetta. L'album appunto ve l'ho già un po' raccontato, ma ovviamente bisogna ascoltare, ma c'è molto anche di elettroacustico, anche delle dimensioni sonore che richiamano soprattutto nella parte ritmica sonorità e composizioni di tipo jazzistico, in un'ottica molto vicina per certe atmosfere alle musiche dei Nex, ma non solo, anche ai Radian, che poi sono il gruppo che ha attraversato 451 frammenti sonori come sigla da molti anni, per molti anni, tuttora è presente come sigla per 451 frammenti sonori, e noi invece ci muoviamo con una nuova sigla come 451 intersezioni, partita l'anno scorso, che è appunto tratto dall'album Harry Cow, Legend of Harry Cow, che è il gruppo, uno dei gruppi amati dal nostro amico Pier Antonio, che faceva parte dell'idea del progetto futuro, che purtroppo è venuto a mancare. Abbiamo costruito questo progetto nuovo anche in memoria, mantenendo il filo rosso di Pier Antonio Pezzinga con la sua intersezione, ed è nato appunto 451 intersezioni dallo scorso anno. Dunque ci andiamo ad ascoltare Svod, dunque cambiamo un po' pagina, ma l'attitudine è sempre quella, la sperimentazione, l'alterazione, la manipolazione del piano, dei suoi derivati, della sua concezione sia materiale che immateriale. L'album è Gehen e ascolteremo appunto una traccia tratta da questo album uscito nel 2004 di Svod, e con questo album vi saluto e vi auguro la buonanotte. 451 intersezioni, alterazioni pianistiche capitolo 2 chiude qui il percorso sonoro di stanotte. Ovviamente io vi aspetto per giovedì prossimo, sempre dalle 24 fino all'una, una e mezza circa, e vi ricordo sempre l'appuntamento del mercoledì dalle 23 fino all'una circa di 451 frammenti sonori. Una buonanotte da Elisio Scarpa, ciao. Mom. Mamma.